Salva Danaio di Deborah Rosciani. L'attacco al cuore finanziario degli Stati Uniti fa precipitare nel panico tutti i mercati del mondo. Wall Street, vicinissima alle Torri Gemelle crollate, è stata evacuata e non ha neppure aperto. E sui mercati finanziari, appena arrivata la notizia degli attentati, si è scatenato il panico, è scattata immediatamente un'ondata di vendite, tutte le borse sono... Il Nasdaq ci ha provato ma ha desistito e chiuse sono rimaste le borse del Sud America. In Europa si è deciso, con una posizione comune delle borse continentali criticata da molti operatori, di giungere comunque alla chiusura. Milano ha perso il 7,42, peggior risultato dal 94, Parigi il 7,21. Wall Street, le contrattazioni non sono naturalmente mai cominciate, mentre il prezzo del petrolio è subito... Come spesso accade in situazioni di emergenza, c'è la corsa ad accaparrarsi beni rifugio. L'oro è stato quotato $287 l'oncia, ma nel dopo contrattazioni è volato verso i 300. E a proposito di dollaro, la moneta americana ha perso terreno, ma meno di quanto si potesse prevedere. In serata il biglietto verde americano è scambiato a 0,9080 sull'euro. Eccoci in diretta, buona giornata a tutti da Deborah Rosciani. Avete sentito i contributi che abbiamo recuperato dagli archivi, da internet, i titoli dei telegiornali di quella terribile giornata. Una giornata che almeno noi, quelli della generazione che l'hanno vissuta, non dimenticheremo mai più. L'11 settembre del 2001 di New York, il terribile attentato delle Torri Gemelle, è stata una giornata nera per la storia americana, per la storia mondiale. Un evento sul quale sono stati versati fiumi di inchiostro, le circostanze, le conseguenze, tutti aspetti che saranno affrontati peraltro nei prossimi giorni in una serie di speciali che verranno mandati in onda anche dalla nostra emittente, ma anche noi abbiamo deciso di fare un punto della situazione per capire cosa è successo in questo decennio, cosa è successo nel panorama economico mondiale, cosa è successo sui mercati, cosa è cambiato nell'approccio generale nei confronti dell'investimento. Certo che, a giudicare da quello che sta succedendo dall'estate del 2007, quasi che abbiamo la sensazione di avere un 11 settembre permanente sui mercati finanziari. Nei fatti il mondo finanziario ha abbattuto o capovolto molti convincimenti. I titoli di Stato non sono più sicuri. Da quella data quasi tutte, ma non tutte, le borse mondiali hanno un bilancio negativo. Viviamo in una condizione di tassi di interesse bassissimi da anni. C'è stata l'esplosione dei prezzi delle materie prime, la fame di crescita dei paesi emergenti, sono scoppiate una bolla tecnologica, bolle immobiliari. Un decennio che è stato molto veloce nei suoi cambiamenti e nei cambiamenti che ha portato, tra cui appunto la crisi finanziaria recente, che è la più grande dal 1929. Noi oggi ci riguarderemo indietro ricordando cosa appunto è capitato in questi anni, fatti salienti. Intanto vi chiedo anche la vostra collaborazione, chiamateci all'800240024, raccontateci proprio, come dire, la vostra sensazione dal punto di vista economico e finanziario, i fatti che vi hanno più colpito dall'11 settembre in avanti. E noi ci confronteremo questa mattina con Maria Paola Toschi, market strategist di JP Morgan Asset Management. Benvenuta a Salva Danaio, buongiorno. Grazie. E buongiorno anche a Massimo Fortuzzi, amministratore delegato di Ideasim, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io conoscevo già queste due persone molto bene all'epoca dei fatti e vi racconterò anche come abbiamo vissuto quelle giornate, quella giornata e le giornate immediatamente successive. Se non avete il tempo per chiamarci, per intervenire in diretta, ci potete comunque scrivere al 349-238-6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Allora, raccontiamo un po' di cose, di quelle giornate. Io in quel periodo lavoravo alla televisione del Sole 24 Ore, Massimo Fortuzzi veniva spesso in diretta nei nostri studi, così come molto spesso mi collegavo appunto in diretta con gli studi di Banca IMI, dove invece lavorava Maria Paola Toschi. Massimo Fortuzzi all'epoca ha avuto diverse vicissitudini professionali, lo abbiamo conosciuto in Deutsche Bank Finanze Futuro, poi un'esperienza, un triennio ad ABN AMRO, poi Merrill Lynch, adesso Ideasim. Ho ricordato tutto bene intanto? Perfettamente. Maria Paola Toschi, cosa è successo in quel giorno, in quella giornata, nelle vostre sale operative? Ma io mi ricordo molto bene perché appunto ero in Banca IMI, tra l'altro non da tantissimo tempo, e quindi vivevo un po' quella fase iniziale anche abbastanza di euforia che si ha quando si cambia lavoro, e in particolare quando si va in una grande istituzione come quella che era Banca IMI, dove c'erano queste grandi sale operative, e nelle sale operative c'erano questi schermi molto grandi dove si seguivano tutte le principali vicende che potevano influenzare i mercati. Beh, quel giorno è stato un giorno che me lo ricorderò per tutta la vita, perché tutta l'attività si è fermata, tutta la sala era in silenzio, c'era questo enorme schermo e praticamente abbiamo vissuto in diretta tutto quello che era successo in maniera, sembrava quasi una cosa irreale, sembrava un film, sembrava uno di quei tanti, diciamo, film che proiettano questi scenari immaginari, no? Quindi sicuramente è stata una situazione che aveva lasciato tutti attoniti. L'attività era rimasta per lungo tempo bloccata, ma perché la fase di angoscia e di sconforto aveva colpito un po' tutti, e questo evento era entrato prepotentemente proprio nelle sale operative, quindi nel mondo finanziario, e poi ha continuato un po' a condizionarlo, perché da quel giorno probabilmente è cambiata anche un po' la percezione della realtà che stavamo vivendo. Una percezione che è cambiata anche adesso, la situazione è un po' diversa, stiamo parlando per esempio del concetto di rischio, il concetto di rischio da allora ad oggi è cambiato molto, si è evoluto per effetto di una serie di situazioni che vanno sia dal contesto politico e quindi anche da questi episodi di terrorismo così forti e importanti, ma anche al concetto legato proprio alle bolle speculative, alla difficoltà molto spesso dei mercati a riconoscere delle situazioni di inefficienza che si riconoscono solo una volta che le bolle sono scoppiate, e anche la situazione attuale dove il mondo sta ancora cambiando, il rischio sta ancora evolvendo, i concetti su cui abbiamo sempre ragionato di, diciamo, rapporti relativi tra governi, tra società, tra paesi emergenti, paesi sviluppati, sta ancora evolvendo. Quindi stiamo vivendo in un contesto dove i cicli sono sempre più veloci, le situazioni cambiano in maniera sempre più repentina, e chi è abituato anche a operare sui mercati finanziari si trova a dover prendere delle decisioni molto rapidamente. Tra l'altro, in quelle giornate, tra gli effetti più immediati, tra le decisioni più immediate che vennero prese, ci fu una decisione congiunta da parte delle principali banche mondiali, che effettuarono immediatamente un taglio dei tassi di interesse, perché si era già aperto immediatamente lo spauracchio di un tracollo economico, quanto l'America avrebbe dovuto finanziariamente appunto pagare per sostenere le conseguenze di quel disastro. E peraltro, portando i tassi effettivamente in tempi molto rapidi vicini allo zero, si crearono le premesse per quella bolla finanziaria di cui paghiamo le conseguenze ancora adesso. Detto questo, poi analizzeremo anche questo. Massimo Fortuzzi invece dov'era quel giorno? In ufficio o con qualche cliente? No, ero in ufficio. Allora io guidavo circa una trentina di gestori del gruppo Deutsche Bank, gestivamo tutti i fondi comuni. Come Paola ha rammentato poco fa, è prevedibile, è comprensibile che tutti fossero attoniti di fronte al fenomeno. La realtà è che non si riusciva a comprendere veramente cosa stesse succedendo, perché tornando indietro a quegli istanti, per quanto questo sia possibile, bisogna rammentare che il primo aereo che entrò nella torre venne inizialmente interpretato come un incidente, e quindi soltanto allorché si vide in maniera del tutto inaspettata il secondo aereo entrare nella seconda torre si comprese che stava succedendo qualcosa di inusuale. Ma da questo a trarre la conclusione che fosse l'inizio di un decennio, o anche di un periodo, adesso non esageriamo, di un periodo in cui l'America sarebbe nuovamente entrata in guerra e tutto il globo, perché di questo si è trattato, sarebbe stato oggetto di una rivisitazione, ecco, eravamo ben lungi da comprendere questa circostanza. E anche impreparati, secondo lei? Beh, impreparati, come si fa a essere? Di fronte ad un fatto terroristico, senz'altro no, ma di fronte a tutto quello che ne è arrivato, che ne è arrivato come conseguenza? Ma io ho questa interpretazione. Già allora, nel corso dell'inizio del decennio che si è da poco concluso, c'erano stati dei segnali di cambiamenti significativi. Non dimentichiamo la crisi dei titoli tecnologici, che al tempo stesso però era specchio di un cambiamento delle capacità che le economie mondiali avevano di generare fenomeni e in ultima istanza ricchezza, no? Cioè, il decennio precedente è stato il decennio del trionfo dell'elettronica e della facile comunicazione, che si è consolidato poi nel decennio da 2010, da 2000 a 2010. Questo non era allora prevedibile. E soprattutto, a mio modo di vedere, quanto successe con le torri creò un diversivo enorme all'interno dell'opinione pubblica occidentale, che la rese poco capace di comprendere altri fenomeni che stavano nascendo, la globalizzazione. Rammento che l'acronimo oggi di uso comune, BRIC, no? Brasile, Russia, India, Cina, venne istituito, lanciato nel 2003. Nel 2000 e nel 2001 la Cina era, o l'India, erano paesi molto lontani dalla prospettiva di investimento e quindi dall'interesse dei mercati finanziari. Allora, quanto è avvenuto nel decennio, a mio modo di vedere, è stato non compreso completamente, anche a seguito del fatto che dalle torri in poi, dal 2001, per almeno 2 o 3 anni, l'attenzione principale del mondo è stata concentrata nei confronti delle conseguenze di quell'attacco, cioè delle guerre. Allora, mi sono ritrovata ieri mentre preparavamo questa trasmissione molti articoli scritti nelle giornate immediatamente successive appunto a quel terribile evento, soprattutto gli articoli scritti fra il 12 e il 13 e un altro articolo molto interessante che ho trovato in questi giorni è stato quello pubblicato da Mario Deaglio sulla Stampa, dove ricostruisce appunto i fatti principali che hanno portato anche alla reazione americana e alle conseguenze diciamo economiche dell'11 settembre sugli Stati Uniti, non tanto attribuibili al fatto dell'11 settembre quanto a tutto quel terreno, quel presupposto che era già pronto appunto per portare poi ad una caduta del capitalismo americano. Mario Deaglio ricorda intanto il fatto che nell'autunno del 2001 la borsa americana aveva regalato al mondo internet, i ruggenti anni 90, scrive Deaglio, della borsa americana che avevano regalato al mondo internet erano ormai alle spalle. Il Dow Jones, l'indice simbolo del capitalismo americano, aveva toccato il suo massimo storico nell'ottobre del 99. Da allora gli indici di borsa si erano fermati e poco dopo anche la crescita americana si era fermata per essere sostituita da una leggera caduta, un fatto assolutamente inconsueto per gli Stati Uniti. Scoppiò in quel periodo il caso Enron, un gravissimo scandalo finanziario, una sorta, Mario Deaglio lo ha definito in questo articolo, di prolungato 11 settembre del mondo imprenditoriale americano e della sua etica. Il terzo collasso, perché lui ridefinisce 3 collassi statunitensi, americano, riguarda la dimensione internazionale del dollaro ed è strettamente collegato alla crisi argentina, per cui tanti fatti che si sono appunto verificati da quel periodo in avanti e che direi possiamo anche ricommentare dopo la nostra prima pausa di oggi. Ci dobbiamo fermare appunto come sempre per la pubblicità e il meteo. Intanto reinvito ancora i nostri ascoltatori ad intervenire all'800 24 00 24. A tra pochissimo. Salva Danaio, come molte altre trasmissioni da qui a domenica prossima e come Radio Day di oggi, dedica la sua trasmissione, dedica come tema di approfondimento appunto, si dedica al passato, a quello che è accaduto negli ultimi 10 anni. Domenica il mondo celebrerà questa ricorrenza, non certo piacevole, 10 anni dall'11 settembre del 2001, dal crollo delle Twin Towers, all'attentato che sconvolse New York e tutto il mondo. Noi oggi ne stiamo facendo un po' un quadro economico e finanziario, se volete, perché da quel momento in avanti, un po' per effetto di questo attentato terroristico, ma anche non per effetto di questo attentato, il mondo è cambiato, sono cambiate molte certezze. Tra l'altro abbiamo anche stilato un punto di borsa per vedere gli indici finanziari da quel momento in avanti come si sono comportati. Sicuramente per molti il bilancio è estremamente negativo, anche perché su di questi pesa l'altro 11 settembre, che è quello che stiamo ancora, con il quale ci stiamo ancora confrontando, che è quello scoppiato nell'estate del 2007. Con noi questa mattina per questi ricordi e questa analisi Maria Paola Toschi, market strategist di JP Morgan Asset Management, e Massimo Fortuzzi, amministratore delegato di Ideasim. Nella prima parte della trasmissione abbiamo mandato un collage di titoli di telegiornali dell'epoca che raccontarono un po' come aprirono le borse e cosa successe nell'immediato sui mercati. E la cosa che mi ha più colpito quando ieri abbiamo raccolto questo materiale è il titolo letto appunto da un collega giornalista, forse del TG3, che dice: come al solito in queste circostanze scatta la corsa ai beni rifugio, vola il prezzo dell'oro a $260 l'oncia, ormai proiettato verso i 300. Maria Paola Toschi, oggi siamo quasi a $2000 l'oncia, quindi un fatto conclamato del decennio è stato il volo del prezzo delle materie prime, e dicevo anche all'inizio la fame che hanno i paesi emergenti, e per fortuna che questi continuano ancora a crescere. Sì, il caso delle materie prime e anche in particolare dell'oro in questo momento ci consente forse un po' di ricondurci a quel tema che, di cui abbiamo parlato all'inizio, no? Il tema del rischio e di come il concetto di rischio un po' è cambiato nel corso di questo periodo. Ovviamente stiamo parlando di un periodo lungo, stiamo parlando di un periodo quindi che è stato condizionato da tanti fattori, quindi non è sempre semplice, no, distinguere le varie componenti che hanno influenzato il mercato. Se parliamo di materie prime in generale, sicuramente c'è stata nel corso del decennio un forte aumento della domanda da parte dei paesi emergenti che si stanno e si sono imposti alla, diciamo, attenzione a livello internazionale proprio per questi trend di crescita molto forti, sostenuti dalla crescita demografica, sostenuta dalla necessità di investire e quindi di domandare materie prime. Quindi c'è un fenomeno reale di aumento della domanda dietro alcuni movimenti anche molto forti delle materie prime, però si sono innescati in questa fase anche dei fenomeni speculativi molto forti e che non sempre sono stati facilmente riconoscibili dagli investitori e dai mercati. Per esempio il petrolio, proprio ricordavamo prima, nel 2008 ha raggiunto un picco che all'epoca era considerato la conseguenza proprio di questo aumento della domanda, in realtà poi si è scoperto, una volta che questa bolla è scoppiata, che buona parte di questa componente era speculativa, legata alla nascita di fondi specializzati sulle commodity. Quindi la complessità del sistema finanziario tende ad essere molto in aumento e tende anche a rendere molto difficile talvolta l'interpretazione di alcuni trend. In questo momento stiamo osservando un movimento quasi simile sull'oro. È vero che c'è un contesto di grande incertezza, c'è un contesto di rischio legato ai debiti sovrani, c'è un contesto in cui molto spesso è difficile trovare dei punti di riferimento chiari e ancora il concetto di rischio è modificato, è mutato in quest'ultimo periodo. Però quello che mi viene da dire è attenzione, perché il prezzo dell'oro a $1,800-$1,900 come lo stiamo vedendo in questo periodo sicuramente ce l'ha anche dei rischi, quindi gli investitori retail o anche gli investitori istituzionali forse devono cercare anche di prendere spunto da quanto si è osservato nell'ultimo decennio per cercare di cogliere anche quelle spinte speculative o quel rischio di bolla che si cela in certi movimenti di questo genere, proprio perché sono esacerbati da una serie di situazioni di incertezza che non sono sempre facili da analizzare. Massimo Fortuzzi, in quegli anni c'era la neonata Unione Monetaria Europea che stava creando appunto le sue basi. Nel giro di 10 anni questa unione monetaria sembra essere in crisi. Abbiamo questa terribile crisi degli stati sovrani, del debito sovrano, e qui ci riconduciamo un po' alla riflessione che facevamo all'inizio: cicli economici brevissimi e che oggi ci portano anche un po' a riconsiderare la nostra storia. Stiamo parlando di un esperimento che non ha precedenti nella storia, e quindi questo è stato riconosciuto dai più autorevoli commentatori. Da ciò deriva, non fosse altro che per logica, che si stia assistendo a qualche cosa di difficile, no? E che quindi il fatto che si diano delle difficoltà nel corso della costruzione di questo percorso, dal mio punto di vista, è assolutamente prevedibile, naturale, no? Qui stiamo mettendo assieme, si sta da un decennio mettendo assieme popoli che hanno linguaggi, monete, tradizioni, perfino cibi diversi, insomma, e ovviamente invece più poesicamente fiscalità diverse, no? E politiche fiscali diverse. La complessità è assolutamente ovvia. Io rimango un ottimista in questo senso, quindi penso che questo esperimento meriti di continuare ad essere sostenuto. Ora, se invece si vuole dire che cosa questa innovazione ha prodotto all'interno dei tessuti economici e finanziari, quantomeno europei, c'è un fatto, secondo me, da cui non si può prescindere. Con la creazione dell'euro i fenomeni inflazionistici sono diventati rigorosamente più controllati che non in precedenza. Non riesco neanche a immaginare che cosa potrebbe essere la situazione italiana se noi non fossimo entrati nell'euro. Non dimentichiamo che eravamo vicini alle doppie cifre di rendimento ancora nel corso del decennio anni 90. E oggi, e per tutto il decennio che è appena terminato, nonostante i problemi, noi siamo riusciti ad avere inflazioni incredibili. Un rendimento del 5,5% sul decennale ci spaventa molto e non ricordiamo effettivamente quello che è successo nel decennio passato. Ecco. Quindi siamo abituati a parlare di questa neonata, in senso storico, esperienza. 9 anni non sono nulla, la banconota uscì nel gennaio del 2002 come un problema. Non dimentichiamo che invece ha già offerto delle soluzioni oggettive a dei problemi che esistevano. Ritorniamo alla situazione economica americana. Tassi di interesse. Scriveva Mario Platero il 4 settembre del 2011, qualche giorno fa, ricordando appunto quell'11 settembre del 2001. Fra il mese di gennaio e il 21 agosto del 2001, in reazione alla debolezza congiunturale, Alan Greenspan, che allora sedeva sulla poltrona della Federal Reserve, porta i tassi sui Fed Funds dal 6,5% al 3,5. Dopo 21 giorni Bin Laden attacca, la confusione sui mercati è al massimo. Il 17 settembre la Fed, con tassi molto bassi, reagisce, li riduce di altri 50 punti base al 3% e spiega che continuerà a fornire inusuali volumi di liquidità ai mercati fino a quando non si tornerà a condizioni di mercato più normali. I tassi erano diversi, Maria Paola Toschi, ma le considerazioni e le parole erano le medesime che deve utilizzare adesso Ben Bernanke, che guida la Federal Reserve. Di fatto, insomma, i tassi vennero abbassati fino a un punto percentuale nel 2003. Oggi gravitiamo di nuovo siamo ancora su livelli molto bassi perché siamo fra lo 0 e lo 0,25%, ma mi ha colpito molto ricordare che nel gennaio del 2001 erano al 6,5%. Sì, il tema, diciamo, io questo particolare anche della liquidità in effetti non lo ricordavo, però effettivamente direi che questi anni ci hanno anche fatto capire quale è la forte relazione che c'è tra la finanza e l'economia reale e le forti ripercussioni che talvolta è difficile capire, ma che sono poi molto forti ed immediate, tra le decisioni di politica monetaria, che sembra una cosa così lontana, così distante, così diciamo poco anche importanti per la gente comune, come invece queste decisioni abbiano delle implicazioni anche sociali proprio e quindi di economia reale molto molto significative. Gli italiani finanza... diciamo che nel 2008 con i mutui lo hanno scoperto, come quello che succede a Francoforte, poi arrivi dritto nelle nostre tasche. Una finanza sana, una finanza anche diciamo non condizionata da eccessiva volatilità, da eccessiva incertezza, è una situazione che crea benessere, crea ricchezza, crea stabilità sociale, crea quindi tutte le condizioni anche per avere delle prospettive molto più importanti, molto più serie proprio per la gente comune. Quindi è inutile che continuiamo a pensare che il signor Bernanke piuttosto che Trichet sono dei personaggi che tutto sommato non ci riguardano, le cui decisioni sono molto lontane. In realtà abbiamo capito che queste decisioni sono diciamo assolutamente di importanza reale, diretta anche per la gente. Cosa possiamo dire in questo momento? In questo momento ci troviamo in una situazione che è ancora una volta da valutare, perché siamo in un contesto di tassi a zero e rimarremo ancora in un contesto di tassi a zero. La Fed ha appena detto poco tempo fa che probabilmente terrà i tassi a zero fino al 2013, quindi il denaro non conta più niente, nel senso non costa più niente, non costa più prendere denaro. Nonostante questo le aziende fanno fatica a investire, non utilizzano questo contesto così favorevole, quasi unico, per diciamo crescere, investire, aumentare l'occupazione. Quindi questo è proprio quel rischio di trappola della liquidità di cui ogni tanto si parla, e anche un po' il rischio di diciamo seguire le orme del Giappone, che in passato ha vissuto una situazione diciamo per un lungo periodo molto simile. E questo è proprio un po' anche la conseguenza della difficoltà a trovare delle politiche economiche efficaci. Questo è il caso, parlavamo il caso americano, ancora più importante questo concetto è per il caso europeo, proprio per la presenza di tante politiche economiche, di tante teste, di tanti contesti sociali diversi, che rendono ovviamente molto più difficile trovare degli strumenti coordinati proprio per cercare di rilanciare una prospettiva di crescita e sviluppo e di benessere essere proprio per l'area europea. Toschi, fra un minuto devo andare di nuovo in pausa, faccio chiudere a lei quindi questo blocco. È d'accordo con l'analisi di Mario Platero, che dice effettivamente con l'ultimo intervento che nel 2003 si fece, che portò i tassi all'1% in quel momento, si crearono le premesse per la crisi finanziaria di cui stiamo pagando le conseguenze ancora oggi. Ma sì, perché allora iniziò questo, diciamo, contesto in cui anche i privati iniziarono a indebitarsi moltissimo, soprattutto nell'area americana, e si crearono quindi le premesse per, diciamo, lo scoppio del credit crunch, quindi dei tassi di risparmio, soprattutto nel contesto americano, che andarono a zero. Ancora siamo in fase di ripristino di questa, diciamo, componente di risparmio che nel mercato americano resta bassa, ma che allora era veramente andata a zero, e quindi aveva aumentato notevolmente la leva finanziaria del sistema nella sua globalità, cosa che per esempio non c'è in molti paesi europei, tra cui anche il paese, anche l'Italia, perché è vero che noi abbiamo un fortissimo debito che spaventa quando si vede, però è anche vero che noi invece abbiamo una propensione al risparmio molto alta, quindi un minore grado di rischio. Concludo dicendo che ogni crisi però ha delle situazioni assolutamente originali, uniche, per cui è sempre difficile poi valutarne le conseguenze, perché quali saranno le conseguenze della liquidità estrema che è stata messa sul sistema, di questa fase di tassi a zero così prolungata? Probabilmente lo capiremo un pochino più avanti. Un paio d'anni fa ci dicevano pagheremo, come dire, lo scotto di un'inflazione molto alta per i prossimi anni. Questo è veramente l'ultimo problema che abbiamo in questo momento, ne abbiamo altri. Fortuzzi, le preannuncio la domanda che le voglio fare quando riprenderemo. Voglio capire da lei come è cambiato il modo di approcciarsi alla consulenza nell'investimento con queste crisi, perché immagino che la clientela alzi telefono ogni giorno per chiedere lumi e ragioni di quello che accade. Sarà accaduto sicuramente anche in quel periodo, oggi forse accade molto di più, perché proprio anche l'approccio al mondo dell'investimento come è stato travolto da tutto questo. A tra poco, dopo i suggerimenti per chi è in viaggio. Prima di iniziare la trasmissione avevo espresso questa teoria a Massimo Fortuzzi, della quale avremmo potuto discutere nel corso della trasmissione. Tra le tante cose che sono cambiate, ma questa è evidente, il titolo di Stato non rappresenta più una garanzia per chi invece lo riteneva fino a poco tempo fa una cassaforte, quasi che adesso per proteggere al massimo i nostri risparmi dobbiamo dirottarli verso la Cina e l'India. Non è questo uno dei tanti cambiamenti portati e dall'11 settembre e dei quali dovete anche rispondere alle persone, Fortuzzi, appunto, nei confronti delle quali effettuate la vostra attività di consulenza finanziaria? Beh, io parto da un fenomeno avvenuto per l'appunto all'interno del decennio per arrivare alle modifiche di atteggiamento nei confronti degli investimenti. Il decennio, secondo me, è caratterizzato fortemente da uno spostamento di asse sia geopolitico che soprattutto economico. Le aree che crescono nel mondo oggi sono l'Asia, in gran parte, soprattutto, e in parte l'America Latina, comincia ad affacciarsi l'Africa. Allora, il ribaltamento di prospettiva, che invece è quella che ha caratterizzato tutto il secolo precedente, erano Europa e Stati Uniti che crescevano e governavano il pianeta, ecco, fa sì che le persone, anche se con lentezza oggi, comincino a realizzare che non sarà così facile continuare ad arricchirsi come è successo negli ultimi 20 o 30 anni. Questo vale per l'Italia, come vale per gran parte dell'area europea, ma anche per gli Stati Uniti e per la Gran Bretagna. Conseguentemente, l'obiettivo degli investimenti comincia a modificarsi. È estremamente importante avere un atteggiamento nei confronti degli investimenti finanziari che consenta la protezione del capitale, cioè del patrimonio accumulato nel corso dei periodi precedenti, sia che si tratti di patrimoni secolari o di patrimoni decennali. Fenomeno tanto più accentuato dal fatto che in tutte le economie occidentali assistiamo anche a crisi dei sistemi pensionistici e quindi le persone si attendono meno capacità di copertura in senso previdenziale di quanto non ci si attendesse soltanto all'inizio del secolo, cioè nel 2000 e nel 2001. Quanto oggi ci viene richiesto è soprattutto di riuscire a costruire dei portafogli, delle proposte che consentano di proteggere il capitale in un contesto di grande incertezza come quello in cui proprio oggi viviamo. Allora, lei parlava del Brasile o dell'Asia. Quelle sono aree, come ho detto, in cui c'è crescita, sono aree in cui c'è anche rischio contemporaneamente. Quindi immaginare che basti posizionarsi all'interno di questi di questi comparti, di queste aree geografiche, per riuscire a mantenere il proprio patrimonio, addirittura a farlo crescere, purtroppo non è sufficiente. Quello che oggi possiamo dire, contrariamente a 10 anni fa, ribadisco, 10 anni fa i BRIC venivano considerati avventurosi e quando si proponevano significativi investimenti in quelle aree, l'osservazione del risparmio... C'era un gran punto interrogativo sulla faccia degli investitori. Oggi si rischia di fare il contrario, cioè che si dia per scontato che soltanto lì si possa crescere e fare denaro. Queste aree sono destinate ad acquisire ulteriore peso all'interno della capitalizzazione delle borse mondiali e anche dell'insieme dei debiti governativi mondiali. Quindi ha senso immaginare che posizionare una parte delle proprie risorse su paesi come l'India, come la Cina, possa portare nell'arco del prossimo decennio o quindicennio dei risultati interessanti. Al tempo stesso, per garantire oggi, per provare a garantire la protezione del patrimonio, è appropriato anche mantenere parte delle risorse, una parte importante delle risorse nelle aree in cui si opera, in cui si proviene, no? Noi per esempio in euro, per cominciare, non abbiamo rischi valutari, che è una cosa importante. Basta osservare, ricordare le fluttuazioni del dollaro euro soltanto negli ultimi 2 anni, lasciamo perdere il decennio. Quando andiamo a guardare i confronti con le valute dei paesi emergenti, che sia la Turchia o la rupia indiana, c'è da spaventarsi. E quindi molta attenzione nell'operare in questi paesi se si investe in valute locali. Ecco, molto meglio cercare di coprirsi. Quindi nell'area euro non abbiamo rischi valutari, abbiamo dei paesi dove comunque la crescita continuerà, e continuerà perché esistono aziende e tessuti che garantiscono supremazia tecnologica, capacità di competere a livello planetario. Questo vale anche per alcuni pezzi dell'Italia, non parliamo sempre male del nostro paese. E per quanto riguarda invece quello che una volta era il risk free, cioè il debito governativo, qua il problema che trova la sua origine nella espansione dell'indebitamento mondiale. Sinteticamente, qui sarò molto veloce, io penso che i tassi bassi del 2003 abbiano contribuito, ma ha contribuito anche l'eccesso di risparmio che è arrivato negli Stati Uniti a fronte della crescita proprio dei paesi emergenti, in particolare il risparmio cinese. Sono stati gonfiati i bilanci delle banche statunitensi e poi anche di altre banche mondiali, c'è stato un eccesso di leverage, come si dice oggi, c'è stata la crisi del 2008, questo eccesso di leverage è stato spostato dal sistema finanziario mondiale ai governi mondiali, agli stati, e oggi tutti gli stati sono iperlevereggiati, hanno troppo debito, detto in italiano. Allora sarà necessario e ineluttabile, non so in che forma, ridurre questo debito nel corso di questo decennio. Ridurre questo debito non necessariamente farà male ai titoli governativi, può far male alle tasche dei risparmiatori in altra forma, ecco. Ma secondo me i titoli governativi nell'arco del decennio ritroveranno un momento di grande brillantezza, quantomeno un po' più di serenità rispetto, esatto, a quello che abbiamo visto negli ultimi giorni. Riferito a tutto il discorso che abbiamo fatto fino a questo momento, c'era anche la riflessione di un ascoltatore che è l'unico che almeno si tira fuori dal gruppo di quelli che vogliono intervenire solo per fare osservazioni di natura politica sul terrorismo e quant'altro. Ma noi oggi, come sapete, la trasmissione è dedicata un po' al mondo degli investimenti e al mondo finanziario. Roberto, buongiorno, rapidissimo se ce la fa, grazie. Buongiorno, io sono un investitore, piccolo investitore, che le ha sbagliate tutte, però non le ho sbagliate personalmente, le hanno sbagliate tutte le persone che mi hanno consigliato investment grade, cioè investimenti sicuri che nel corso del tempo sono diventati carta straccia o quasi. Chiedevo se nel sistema non sarebbe più utile trovare dei responsabili, visto che l'evoluzione è molto rapida, e se migliaia di economisti in giro per il mondo non siano ancora riusciti a trovare un sistema che preveda, a fronte dello sviluppo, il fatto che molte aree in realtà, come la nostra, nei prossimi anni saranno depresse e mortificate da tutto ciò che vuol dire essere globalizzazione. Il termine globalizzazione di per sé, per me, intendeva il fatto di poter avere una struttura sovranazionale che meglio potesse garantire tutti. E questa è una piccola critica. Ringrazio per avermi chiamato alla fine, perché io ho chiamato all'inizio, e questo sì, mi ha Roberto, permesso di poter fare una conclusione. Grazie, grazie Roberto, la lasciamo fare ad ora. Io purtroppo ho 2 minuti di tempo, e invece Roberto apre, come dire, una parentesi per la quale dovremo andare avanti per altre 2 ore. Purtroppo dobbiamo invece sintetizzare molto. Paola Toschi, tra l'altro mi spiace perché ho fatto fare a Paola, Maria Paola, tanti grafici per raccontarci un po' cosa è successo in questi anni. Effettivamente l'India è cresciuta di quanto, Fortuzzi, lei che ha le percentuali? 100%. Il 100%, 300%. Il 300%, la nostra borsa è sotto del 50% da quei giorni, così tanto per corredare. Ma io chiuderei con 2 ultime riflessioni. La prima, ricollegandomi all'ascoltatore e dicendo che secondo me questi momenti di crisi sono anche momenti di crescita e di evoluzione, di forte evoluzione. Mi riferisco all'Europa in particolare, come ricordava anche Massimo Fortuzzi, l'esperimento dell'euro è un esperimento molto giovane ed è stato anche un esperimento molto ambizioso. Sicuramente è stato un grosso passo avanti per l'area euro, manca una gamba importante, l'abbiamo visto chiaramente in questo momento, la crisi ha messo in evidenza i limiti di questo primo step, diciamo, di aggregazione dei paesi europei. Come ben sappiamo, la gamba è quella politica ed è quella economica, quindi una maggiore unificazione proprio delle politiche economiche. In questo momento è molto difficile, tutti i paesi si stanno dimostrando irrigiditi sulle loro posizioni proprio perché c'è un contesto di crisi, ma io credo che questo servirà per fare dei passi avanti. Non ci vorrà un anno, ci vorrà sicuramente un arco di tempo molto più lungo, ma l'evoluzione è in quel contesto. La prossima volta che vi chiamo spero che ci sia un anniversario più divertente da celebrare e ricordare. Grazie a Maria Paola Toschi, JP Morgan Asset Management, a presto. Grazie. E grazie anche, buon lavoro a Massimo Fortuzzi, amministratore delegato di Ideasim. A presto anche a lei. Questa puntata di Salvadanaio termina qua, io la devo concludere ringraziando necessariamente per questi anni di collaborazione ed amicizia Gaia Romani, che oggi fa con me la sua ultima puntata perché ha degli impegni personali molto importanti da dover rispettare, però le vogliamo dire che le vogliamo tutti bene, la ringraziamo tantissimo per quello che ha fatto per noi in questi anni, e non farmi piangere, a presto, a domani. A lunedì, buon fine settimana a tutti.